Caffè di Whistle Stop, Whistle Stop, Alabama, 28 ottobre 1947. Stump era appena tornato dall'allenamento di football e si era preso una bibita. E.G., dietro il banco, stava preparando una seconda tazza di caffè per Smokey Lonesome. «Voglio parlarti, ragazzo», disse a Stump quando lui le passò davanti. «Oddio», pensò Smokey, e chinò la testa sulla sua fetta di torta alla frutta. «Che cosa ho fatto? Sono stato bravo!» Si difese Stump, che ormai era alto 1,80 m e si radeva la barba tutte le mattine. «È quello che pensi tu. Andiamo nel retro». Lui la seguì di malavoglia e si sedette al tavolo. «Dov'è la mamma?» «È una riunione della scuola». «Allora, ragazzo, che cosa hai detto oggi pomeriggio a Peggy?» Stump assunse un'aria innocente. «Peggy? Quale Peggy?» «Sai benissimo di quale Peggy parlo. Peggy Hadley». «Non le ho detto nulla». «Non le hai detto nulla?» «No? Allora perché meno di un'ora fa è venuta qui in lacrime?» «Non lo so, come faccio a saperlo?» «Non ti ha chiesto di andare con lei al ballo di Sadie Hawkins questo pomeriggio?» «Sì, può darsi che me l'abbia chiesto, non ricordo». «E tu che cosa le hai risposto?» «Insomma, zia Igi, non mi va di andare ad alcun ballo con lei, è solo una bambina». «Che cosa le hai detto?» «Che avevo da fare? Peggy non ha tutte le rotelle a posto, lo sai?» «Ti ho chiesto che cosa le hai detto esattamente». «Stavo scherzando». «Scherzavi, eh? Secondo me invece stavi solo cercando di farti bello davanti ai tuoi amici». Stump si agitò sulla sedia. «Le hai detto di tornare quando le saranno cresciute le tette e di provare allora a chiedertelo, esatto?» Lui non rispose. «Ho detto bene?» «Zia Igi, stavo scherzando!» «Ti è andata bene, perché avrebbe potuto schiaffeggiarti. C'era suo fratello con me. Se fossi stata al posto di Peggy, gli avrei dato un bel calcio nel sedere. Sta facendo una montagna di un granello di sabbia. Trovi? Ti rendi conto di quanto coraggio le ci è voluto per chiederti di accompagnarla al ballo? E tu le hai risposto in quel modo davanti a tutti quei ragazzi? Ascoltami bene adesso. Tua madre e io non ti abbiamo insegnato a essere ignorante e villano. Come ti sentiresti se qualcuno parlasse in quel modo a tua madre? O se una ragazza ti dicesse di andare a fare un giro e di tornare quando ti sarà cresciuto il pisello?» Stampa vampò. «Non dire così, zia Igi. Io dico quello che mi pare e non voglio che ti comporti come un cafone. Ora, se non ti va di andare al ballo, hai diritto di non andarci, ma non devi parlare in quel modo, né a Peggy né a nessun'altra ragazza. Sono stata chiara?» «Sì. Adesso andrai a casa sua e le domanderai scuse. È un ordine, Stampa, hai sentito?» «Sì.» Stampa si alzò. «Siediti, non ho ancora finito.» Stampa sospirò e si lasciò cadere sulla sedia. «Che altro c'è? Voglio parlarti di qualcosa, voglio sapere come va con le ragazze.» Stump sembrava imbarazzato. «In che senso?» «Senti, non ho mai ficcato il naso nella tua vita privata. Hai 17 anni e sei grande come un uomo, ma tua madre e io siamo preoccupate per te.» «Perché?» «Pensavamo che avresti superato in fretta questo stadio, ma adesso sei troppo vecchio per continuare a frequentare solo gli amici.» «Che cosa c'è che non va nei miei amici?» «Niente, è solo che sono tutti maschi.» «E con ciò?» «C'è un intero esercito di ragazze che vanno matte per te e tu non le degni neppure di uno sguardo.» Nessuna risposta. «Anzi, quando una di loro ti si avvicina, comincia a comportarti come uno scemo, ti ho visto.» Stump infilò la punta di un dito in un buco nella tovaglia di tela cerata a scacchi. «Guardami negli occhi quando ti parlo. Tuo cugino Buster è già sposato e aspetta un bambino e ha solo un anno più di te.» «E allora?» «Allora, tu non hai mai invitato una ragazza al cinema e ogni volta che c'è un ballo a scuola preferisci andare a caccia.» «Andare a caccia mi piace. Anche a me, ma nella vita c'è qualcosa di più della caccia e dello sport.» Stump sospirò di nuovo e chiuse gli occhi. «A me piacciono solo quelli.» «Ti ho comprato la macchina perché pensavo che ti sarebbe piaciuto portare Peggy da qualche parte, ma tu la usi soltanto per scorrazzare con i tuoi amici.» «Perché proprio Peggy?» «Peggy o chiunque altra, ma non voglio che tu finisca solo come un cane o come il povero Smokey.» «Smokey sta benone. Lo so, ma starebbe molto meglio se avesse una moglie e una famiglia. Che cosa sarebbe di te se dovesse accadere qualcosa a me o a tua madre?» «Sopravviverei, non sono uno stupido.» «Lo so, sopravvivresti, ma mi piacerebbe pensare che tu avessi qualcuno da amare e di cui prenderti cura. Nel giro di qualche anno tutte le ragazze migliori si saranno accasate. E che cosa c'è in Peggy che non va?» «Niente.» «So che ti piace, le mandavi sempre un San Valentino prima di mettere su tutte queste arie.» Lui non rispose. «C'è qualcun'altra che ti piace?» «No.» «Perché no?» Stump cominciava a perdere la pazienza. «Perché no e basta, e adesso lasciami in pace.» «Senti, bello, lo redarguigi. Sarai anche un eroe sul campo da football, ma io ti ho cambiato i pannolini e quindi posso dirti quello che voglio. Allora, qual è il problema?» Stump rimase muto. Qual è il problema, ragazzo? Non so di che cosa stai parlando, adesso devo andare. Siediti, non devi andare da nessuna parte. Lui sospirò e si sedette. Stump, non ti piacciono le ragazze? Chiese tranquillamente Iggy. Stump abbassò gli occhi. Certo che mi piacciono. Allora perché non esci mai con loro? Non sono dell'altra sponda, se è questo che ti preoccupa. È solo che... Stump si asciugò il palmo sudato sui pantaloni khaki. Coraggio, Stump, dimmi che cosa ti succede. Io e te siamo sempre stati capaci di discutere di qualunque cosa. Lo so, ma questa volta non mi va di parlarne con nessuno. Lo so che non ti va, ma dovresti sforzarti. Allora? Insomma, è solo che... Uffa, è che se una di loro mi chiedesse di farlo... Se una di loro ti chiedesse di andare a letto con lei? Stampa annuì e guardò per terra. Dovresti considerarti fortunato, ragazzo. Potresti prenderlo come un complimento. Stump si asciugò il sudore dal labbro superiore. Hai qualche problema fisico? Non ti viene... Sì, insomma, non ti viene duro? Perché in questo caso ti posso prendere un appuntamento con il dottore. Stump scosse la testa. No, non si tratta di questo. Non ho alcun problema fisico. L'ho fatto migliaia di volte. Iggy rimase molto colpita dal numero, ma non lo diede a vedere. Beh, almeno sappiamo che stai bene. Sì, sto benone, ma non l'ho mai fatto con nessuna. Sai, finora mi sono sempre arrangiato da solo. Non nuocerà la tua salute, ma non credi che dovresti provare con una ragazza? Non posso credere che tu non ne abbia mai avuto la possibilità, un bel ragazzo come te. Sì, l'ho avuta la possibilità, non è questo, è che... La voce gli si spezzò, è che... Che cosa, ragazzo? Tutto a un tratto lui non riuscì più a contenersi e le lacrime cominciarono a scorrergli sulle guance. Ho paura, zia Iggy, ho una fifa nera. L'unica cosa che Iggy non avrebbe mai sospettato era che Stump, che aveva sempre dimostrato tanto coraggio, potesse avere paura di qualche cosa. Paura? Di che cosa, ragazzo? Ho paura di caderle addosso, di perdere l'equilibrio per via di questo braccio e di non essere capace di farlo nel modo giusto, sai? Ho paura di farle male, non lo so neppure io. Evitò di incontrare i suoi occhi. Guardami in faccia, Stump. Di che cosa hai realmente paura? Te l'ho detto. Hai paura che una ragazza possa ridere di te, è così? Finalmente, dopo una lunga esitazione, Stump confessò: Sì, credo proprio di sì. Si nascose il viso con la mano, pieno di vergogna. In quel momento Iggy fece un gesto che non le era affatto abituale. Si alzò, andò ad abbracciarlo e lo cullò come un bambino. Non piangere, tesoro, andrà tutto bene, Angelo, non succederà nulla. Zia Iggy ti aiuterà. Ti ho mai deluso, ragazzo? No. Non ti succederà niente di male, io non lo permetterò. Si sentiva impotente mentre cullava Stump avanti e indietro e cercò di pensare se conosceva qualcuno che potesse aiutarlo. Il sabato mattina, di buon'ora, Iggy portò Stump al fiume, come aveva fatto tanti anni prima. Superarono il cancello con le ruote di carro e si fermarono davanti a una casetta con il portico chiuso da una zanzariera. Iggy gli disse di scendere dall'auto. La porta della casetta si aprì. E una donna pulita e profumata, con i capelli color ruggine e gli occhi verdi, gli sorrise. Vieni, dolcezza, lo invitò, mentre Iggy ingranava la marcia e ripartiva. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 30 ottobre 1947. Nuova impresa di Stump Threadgood. Stump Threadgood, figlio di Iggy Threadgood e Ruth Jamison, è stato elogiato dal Birmingham. Congratulazioni, siamo tutti orgogliosi di lui. Ma non andate al caffè se non avete almeno un'ora da spendere per ascoltare Iggy che vi racconta tutta la partita. Non si è mai visto un genitore più entusiasta. E dopo la partita, alla squadra, alla banda e ai tifosi sono stati offerti hamburger e bevande gratis. La mia dolce metà non ha gusto per il vestire. L'altro pomeriggio sono tornata a casa, convinta di essere splendida grazie alla nuova reticella comprata al salone di bellezza di Opal, e lui mi ha detto che la mia testa sembrava una mammella di capra con sopra un paramosche. Poi, il giorno dopo, il giorno del nostro anniversario, mi ha portata a Birmingham a mangiare gli spaghetti, quando sa che sono a dieta. Gli uomini, con loro è impossibile vivere, ma senza di loro è una tale noia. Per finire, ci dispiace per quello che è accaduto ad Artie Sopivi. Dot Wims. Slagtown, Alabama, 17 ottobre 1949. Artie Sopivi abitava con la sua seconda moglie, Madeline Toole, impiegata come domestica presso una famiglia di Highland Avenue, una strada molto elegante. Quanto a loro, vivevano a casa di lei al numero 6 di Tin Top Alley, nel settore sud della città. Tin Top Alley Era formata da due file di baracche di legno con il tetto in lamiera, circondate da giardini di terra battuta, quasi tutti decorati con vasche da bagno riempite di terra, a guisa di aiuole, per bilanciare il grigiore del legno delle baracche. Era un passo avanti rispetto alla loro ultima abitazione, una stanza nell'ala di servizio di una casa al numero 2 di Alley G. Artis trovava il quartiere estremamente ospitale. A un isolato di distanza c'era Magnolia Point, dove si poteva oziare davanti ai negozi oppure far visita ai mariti delle altre domestiche. La sera, dopo una cena in genere a base di avanzi dei bianchi, si sedevano tutti quanti sotto i portici e una famiglia cominciava a cantare e a una tutte le altre si univano al coro. I divertimenti non mancavano, perché le pareti erano così sottili che si potevano ascoltare la radio o il fonografo dei vicini. Quando Bessie Smith cantava Io non ho nessuno, tutti in Tin Top Alley provavano dolore per lei. E non mancavano altre attività sociali alle quali Artis era immancabilmente invitato. Era l'uomo più popolare della via, sia tra gli uomini sia tra le donne. E ogni sera c'erano almeno una o due fritture di trippa di maiale o barbecue. Quando il tempo era cattivo, poi ci si poteva sedere sotto la luce gialla del portico e ascoltare il rumore della pioggia sui tetti di lamiera. In quel pomeriggio d'autunno, Artis se ne stava per l'appunto seduto sotto il portico, a guardare il sottile filo di fumo azzurrognolo che si alzava dalla sigaretta, felice perché Joe Louis era campione del mondo e la squadra di baseball di Birmingham, i Black Barons, quell'anno aveva vinto tutte le partite, quando un cane giallo, magro e rognoso, sbucò nel vicolo in cerca di qualcosa da mangiare. Apparteneva ad After John, un amico di Artis, così chiamato perché era nato dopo il fratello John. Il cane zigzagò fino al gradino del portico di Artis e ricevette la sua quotidiana carezza in mezzo alle orecchie. Non ho niente per te oggi, bello. Il cane giallo rimase vagamente deluso e se ne ripartì alla ricerca di qualche tozzo di pane o, in mancanza di meglio, di qualche avanzo di verdura. La depressione non era ancora finita in quel quartiere. E anche i cani ne risentivano, spesso addirittura ne morivano. Artis vide arrivare il furgone della Calappia Cani. Ne discese un uomo in uniforme bianca con una rete. All'interno era già stipato un gran numero di randagi, gli sventurati che si erano imbattuti nel furgone quel pomeriggio. L'uomo fischiò per richiamare l'attenzione del cane giallo che era in fondo alla strada. Vieni, bello, vieni, da bravo, forza! Il cane, amichevole e ingenuo, gli corse incontro e un attimo dopo era nella rete e dimenava le zampe mentre veniva caricato sul furgone. Artis scese dal portico. Aspetti un momento, signore, quel cane non è randagio. È suo? Domandò l'uomo. No, è di After John, quindi non può portarlo via. Non mi importa di chi è, non ha la medaglietta e quindi per me è randagio. L'altro uomo scese dal furgone e si fermò ad ascoltare. Artis cominciò a supplicarli perché sapeva che, una volta giunto al canile municipale, non ci sarebbe più stato modo di salvare il cane, in particolare se si era negri. Mi lasci almeno il tempo di andare a chiamare suo padrone. Lavora a Five Points, nella gelateria di Fred Jones, e a pochi passi da qui. Non ha un telefono? No, ma posso andare a telefonare al negozio di alimentari. Mi ci vorrà meno di un minuto. La prego, After John è un po' ritardato e non ha mai trovato moglie. Quel cane è tutto ciò che ha. Non so che cosa farebbe se gli accadesse qualcosa. Potrebbe anche uccidersi. I due uomini si scambiarono un'occhiata e il più grosso disse: Va bene, ma se non torna entro 5 minuti noi ce ne andiamo. Artis si incamminò immediatamente. Torno subito! Mentre correva si rese conto che non aveva un nichilino e sperò che Leo, l'italiano proprietario dell'alimentare, gliene prestasse uno. Arrivò nel negozio senza fiato e vide Leo. Signor Leo, signor Leo, deve prestarmi un nichilino. Stanno per portare via il cane di After John e aspettano solo me. La prego, signor Leo. Leo, che non aveva capito un H di quello che Artis gli aveva detto, lo pregò di calmarsi e di spiegarsi meglio, ma quando si decise a prestargli Nichelino c'era un ragazzo bianco al telefono. Artis cominciò a sudare e ad appoggiarsi prima su un piede e poi sull'altro, sapendo che non poteva chiedere al ragazzo di lasciare libero il telefono. Un minuto, due. Artis gemette. Signore! Finalmente Leo passò lì accanto e bussò contro il tramezzo di vetro. Sbrigati! Il ragazzo, brontolando, salutò per un'altra sessantina di secondi la persona all'altro capo del filo, poi riappese. Quando se ne fu andato, Artis entrò nella cabina e si rese conto di non sapere il numero. Con le mani umide e tremanti, cercò nell'elenco telefonico appeso a una catenella. Jones, Jones, signore, Jones, Jones, ce ne sono 4 pagine piene. Fred B. Ma questa è l'abitazione. Dovete ricominciare da capo sulle pagine gialle. Sotto che cosa dovrò cercare? Gelateria, bar? Non riusciva a trovare il numero. Telefonò alle informazioni. Informazioni? Rispose una voce argentina. In che cosa posso esserle utile? Cerco il numero di Fred B. Jones. Può ripetere il nome, per favore? Sì, signora, Fred Jones a Five Points. Il cuore gli martellava nel petto. Qui ci sono almeno 50 Fred Jones, signore. Conosce l'indirizzo? No, signora, ma è a Five Points. Ci sono 3 Fred Jones nella zona di Five Points. Vuole tutti e 3 i numeri? Sì, grazie. Frugò in tasca alla ricerca di una matita e la donna cominciò a dettare. Fred Jones, 18ª Sud, 68-799. Fred Jones, 141 Magnolia Point, 68-745. Fred C. Jones, 15ª strada, 68-721. Artis non aveva trovato la matita e la centralinista riappese. Lui tornò all'elenco. Era senza fiato, il sudore gli colava negli occhi, annebbiandogli la vista. Emporio, farmacia, gelateria, eccolo, Fred B. Jones, 68-715. Infilò il nichelino nella fessura e compose il numero. Era occupato. Provò di nuovo, sempre occupato. Signore! Dopo 8 tentativi, Artis non sapeva più cosa fare e così tornò di corsa dagli accalappiacani. Svoltò l'angolo e grazie al cielo erano ancora lì, appoggiati al furgone. Intanto avevano legato il cane con una corda alla maniglia della portiera. Trovato? Domandò il più grosso dei due. No, rispose Artis ansante. Non sono riuscito a rintracciarlo, ma se mi potete accompagnare a Five Points, gli parlerete voi stessi. È impossibile, abbiamo già perduto abbastanza tempo con te, amico. Con questo l'uomo cominciò a slegare il cane per caricarlo sul furgone. Artis era disperato. No, non posso permetterlo. Infilò una mano in tasca e prima che i due potessero rendersene conto, aveva tagliato con il coltello a serramanico la corda che tratteneva il cane, gridando «Scappa!». Artis si girò e vide il cane guadagnare l'angolo. Stava sorridendo quando il manganello lo colpì dietro l'orecchio sinistro. 10 anni per aver attentato alla vita di un dipendente municipale con un'arma mortale. E sarebbero stati 30 se i due accalappiacani fossero stati bianchi. Birmingham, Alabama, 1 settembre 1986. Ed Couch tornò a casa il giovedì sera dicendo di avere una grana con una donna dell'ufficio. Una vera rompipalle, perché nessuno degli uomini voleva lavorare con lei. Il giorno dopo Evelyn andò a comprare una liseuse per la suocera e mentre pranzava da sola alla caffetteria del centro commerciale le venne all'improvviso da domandarsi che cos'è una rompipalle. Ed usava spesso quel termine, insieme con mi sta proprio sulle palle e tocchiamoci le palle. Come mai Ed nominava tanto spesso queste palle e che cos'erano? Tutto sommato solo sacchetti contenenti lo sperma. Ma a giudicare dal modo in cui gli uomini ne parlavano, c'era da pensare che fossero la cosa più importante di questo mondo. Ed per poco non era morto dallo spavento quando uno dei due testicoli del figlio non si era sviluppato nel modo giusto. Il dottore aveva detto che questo non gli avrebbe impedito di procreare, ma Ed si era comportato come se fosse una vera e propria tragedia e aveva voluto mandarlo da uno psichiatra perché non si sentisse meno uomo per questo. A suo tempo Evelyn ricordava di averla trovata una cosa sciocca. Il suo seno era sempre rimasto piccolo, ma nessuno l'aveva mai mandata in cura da uno strizzacervelli. Ed, tuttavia, l'aveva avuta vinta perché le aveva detto che lei non poteva sapere che cosa significasse essere un uomo. Gli era venuto un colpo anche quando lei aveva manifestato l'intenzione di far castrare Valentino, il loro gatto, che aveva messo incinta la siamese di razza pura che abitava nella casa di fronte. Se gli fai tagliare le palle, aveva detto, allora tanto vale sopprimerlo. Non c'erano dubbi, era molto sensibile all'argomento palle. Una volta, ricordava Evelyn, si era compiaciuto per quella stessa collega d'ufficio che ora tanto detestava perché aveva tenuto valorosamente testa al capo e di lei aveva detto che aveva le palle. Ma a ripensarci, c'era da chiedersi che cosa avesse a che fare quella donna con l'anatomia maschile. Ed non aveva detto ragazzi che ovaie a quella, aveva detto che palle a quella. Le ovaie contengono le uova, pensò Evelyn, perché le uova devono essere meno importanti dello sperma? E quella donna, quando aveva varcato il confine tra l'avere le palle e l'averne troppe? Poveretta, se voleva la stima dei colleghi le sarebbe toccato passare il resto dei suoi giorni a fare la giocoliera con palle immaginarie. L'equilibrio era tutto, ma che cosa dire delle dimensioni? Era un problema che Ed non aveva mai toccato. Erano le dimensioni di quell'altra cosa a preoccupare gli uomini, pensò Evelyn, quindi il resto non contava più di tanto. L'importante era avere le palle. Poi all'improvviso la pura e semplice verità di questa conclusione la illuminò. Le sembrava che qualcuno le avesse carezzato la spina dorsale con una matita e le avesse stampato un puntino sulla nuca. Si raddrizzò sulla seggiola, stupita di essere stata proprio lei, Evelyn Couch di Birmingham, Alabama, a trovare quella risposta. All'improvviso capì che cosa doveva avere provato Edison nello scoprire l'elettricità. Ma certo, avere le palle era la cosa più importante del mondo, per questo si era sempre sentita come un'auto senza clacson nel traffico. Era vero, quelle due piccole appendici aprivano tutte le porte, erano le carte di credito indispensabili per andare avanti nella vita, per essere presi sul serio, per essere ascoltati. Ecco perché Ed aveva tanto voluto un maschio. Poi un'altra verità la colpì, un'altra triste, irrevocabile verità. Lei non aveva le palle e non avrebbe mai potuto averle, era condannata, perché era nata senza palle, a meno che non contassero quelle dei familiari. In casa sua ce n'erano quattro, quelle di Ed e quelle di Tommy. No, sei se si contava anche il gatto. Se Ed l'amava così tanto, perché non gliene regalava una delle sue? Un trapianto di palla, una prima mondiale assoluta. Poteva anche farsene regalare due da un donatore anonimo. Poteva comprarne un paio da un cadavere, metterle in una scatola e portarle alle riunioni importanti, per sbatterle sul tavolo quando voleva sottolineare la propria opinione. Già che c'era, poteva comprarne anche quattro. Non c'era da meravigliarsi che il cristianesimo avesse avuto tanto successo. Bastava pensare a Gesù e agli apostoli. Contando anche Giovanni Battista, facevano 14 paia e 28 singole, tutte lì esposte all'ammirazione. Adesso era tutto chiaro. Come aveva potuto essere stata così cieca fino ad allora? Sì, aveva svelato il segreto sul quale il genere femminile cercava di far luce da secoli. Questa era la risposta. La più grande star televisiva non era forse stata Lucille Ball? Posò trionfalmente il bicchiere di tè freddo sul tavolo e gridò: «Ma certo, è tutto qui!» Gli avventori della caffetteria si voltarono a guardarla. Evelyn finì tranquillamente di pranzare e pensò: «Lucille Ball! Forse Ed aveva ragione, forse stava diventando davvero pazza!» Prigione di Kilby, Atmore, Alabama, 11 luglio 1948. Artis O'Peavy era stato mandato nella prigione di Kilby, meglio conosciuta come la fabbrica di assassini, per aver mostrato il coltello a quei due accalappiacani e I.G. e Grady avevano impiegato 6 mesi per farlo uscire. Mentre andavano a prenderlo, Grady disse a I.G.: «È una buona cosa che possa uscire adesso, in quel posto non sarebbe durato un altro mese». Grady sapeva di che cosa stava parlando, perché una volta era stato secondino lì. Se non sono state le guardie a tormentarlo, avranno provveduto gli altri negri. Ho visto uomini per bene trasformarsi in animali là dentro, uomini con moglie e figli a casa uccidersi l'un l'altro per qualche ragazzetto. Le notti erano sempre un inferno, ma quando c'era la luna piena bisognava stare doppiamente attenti. Diventavano come pazzi e si accoltellano a vicenda, eh? La mattina dopo entravamo nelle celle e portavamo fuori i cadaveri, anche 25 per volta. Dopo un po' che si è chiusi là dentro, l'unica differenza tra i detenuti e le guardie è la pistola. Molti di quei secondini sono ragazzi senza cervello, vanno al cinema, vedono Tom Mix e quando tornano al carcere giocano a fare i cowboy in mezzo alle celle. A volte sono peggio dei prigionieri. È per questo che me ne sono andato. Ho visto delle guardie picchiare a morte un negro solo per passare il tempo. È un posto che ti trasforma dopo un po' che ci stai dentro, e ho sentito dire che adesso che ci hanno rinchiuso quei ragazzi di Scottsburg è diventato peggio che mai. Ora Igi era davvero preoccupata e avrebbe voluto che Grady guidasse più in fretta. Quando svoltarono nel cancello che portava all'edificio principale, videro centinaia di prigionieri in uniforme a righe che scavavano o zappavano nel cortile. E videro anche le guardie che al passaggio dell'auto, proprio come Grady aveva predetto, cominciarono a fare mostra di sé, impennando i cavalli e sbirciando all'interno della macchina. Igi pensò che molti di loro avessero l'aspetto di ritardati e così, quando le portarono Artis, fu contenta di vederlo ancora vivo e vegeto. Aveva i vestiti spiegazzati e i capelli troppo lunghi, ma in vita sua Artis non era mai stato tanto felice di vedere qualcuno. Le cicatrici provocate dalle frustate sulla schiena non si vedevano, e neppure i bernoccoli sulla testa. Quando uscirono per raggiungere l'auto, sorrideva beato. Stava tornando a casa. «Sono responsabile di te, Artis», lo ammonì Grady, innestando la marcia, «quindi non ficcarti in altri guai. Non ci penso neanche, non ho alcuna intenzione di tornare in quel posto». Grady lo guardò nello specchietto retrovisore. «Una vitaccia, eh?» Artis ride. «Una vitaccia, sì, altro che!» Quando giunsero in vista delle acciaierie di Birmingham, 4 ore più tardi, Artis si eccitò come un bambino e volle scendere dall'auto. Igi cercò di convincerlo a fare un salto prima a Whistle Stop. «Tua madre, tuo padre e Sipsi hanno voglia di vederti!» Ma lui li pregò di lasciarlo a Birmingham, almeno per qualche ora, così lo accompagnarono fino all'Ottava Avenue Nord, come lui aveva richiesto. Vieni a casa presto, si raccomandò Iggy. I tuoi ti stanno aspettando. Prometti? Prometto, rispose solennemente Artis e corse lungo la strada felice di essere tornato nel posto che aveva più caro al mondo. Una settimana dopo si presentò al caffè con i capelli lisci e impomatati e un cappello nuovo di zecca, con la tesa extra larga, disegnato ad Harlem. Il regalo di bentornato di Madeleine. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama. 7 settembre 1986. Quella settimana, per Evelyn e Ninni, la lista delle vivande era costituita da biscotti fatti in casa e bibite. Avrebbe dovuto essere qui stamattina, cara. Si è persa qualcosa. Stavamo facendo colazione quando Vesta Adcock si è messa in testa una focaccina di farina integrale e ha cominciato a ballare l'ula ula davanti a tutti in sala da pranzo. Un vero spettacolo. Il povero signor Dunaway si è talmente eccitato che hanno dovuto dargli una pillola e portarlo in camera sua. Jeanine, l'infermiera di colore, ha fatto sedere la signora Adcock e le ha fatto mangiare la focaccina. Vogliono che ne prendiamo una al giorno contro la stitichezza. Quando si è in là con gli anni, il tubo digerente diventa pigro. Si sporse in avanti e bisbigliò. Qualcuno di quei vecchi fa certi odori e non se ne accorgono neppure. Ninni beve un sorso della sua bibita. Sa, qualcuno vorrebbe che le infermiere di colore fossero mandate via. Una donna di cui ha detto che nel profondo tutti i negri odiano i bianchi e queste infermiere, se potessero, ci ucciderebbero nel sonno. Evelyn rispose che non aveva mai sentito una teoria più assurda. È quello che mi sono detta anch'io lì per lì, ma quella donna era sua suocera, così ho pensato bene di non replicare. Non mi sorprende che sia stata mia suocera. Oh, ma non è soltanto lei. Si meraviglierebbe se sapesse quanti di loro la pensano così. Ma io naturalmente no, sto con i negri da tutta una vita. Il pomeriggio in cui mamma Fredgold morì, guardammo fuori della finestra e a una vedemmo arrivare tutte le donne di colore di Trudeville. Quando furono riunite in giardino, cominciarono a cantare uno dei loro spiritual. Quando arriverò in paradiso, mi siederò a riposare un poco. Non me lo dimenticherò mai. Non ho mai più sentito cantare in quel modo. Mi viene ancora la pelle d'oca solo a pensarci. E prenda Iggy, per esempio. A Trudeville aveva tanti amici quanti ne aveva a Whistlestop e andava sempre a parlare ai loro funerali quando morivano. Una volta mi raccontò che preferiva i negri a qualcuno dei bianchi che conosceva. Ninni, un negro poco di buono è solo un poco di buono, ma un bianco di bassa lega è peggio di un cane, diceva. Naturalmente non si può parlare in generale, ma non ho mai visto in nessuno tanta devozione quanta Onsel ne aveva nei confronti di Ruth, per esempio. Ruth era la sua prediletta e lei non faceva nulla per nasconderlo, non permetteva a nessuno di bistrattarla. Ricordo ancora che una volta Iggy fece una delle sue sceneggiate, bevendo come una spugna per poi uscire a passare la notte fuori. E il giorno dopo Onsel le disse: «Senta, signorina Iggy, vorrei dirle qualcosa. La signorina Ruth ne ha già lasciato uno di disgraziato e non le sarebbe difficile lasciarne due, e io l'aiuterei a preparare i bagagli». Iggy uscì dalla cucina senza dire una parola. Sapeva di non poter mettersi contro Onsel quando c'era di mezzo Ruth. Per quanto dolce, Onsel sapeva essere anche severa. Doveva esserlo con tutti quei figli da allevare e il lavoro al caffè. Quando Artis o Naughty Bird le davano del filo da torcere, l'ho vista cacciarli a sculaccioni fuori della porta senza smettere di tagliare i biscotti. Ma con Ruth era dolce come un agnellino, e quando Ruth si ammalò di cancro all'apparato genitale e dovette andare a Birmingham per farsi operare, Onsel volle venire a tutti i costi anche lei. Eravamo tutte e tre sedute nella sala d'aspetto quando arrivò il dottore. Non si era ancora levato la cuffia e il camice e disse: «Mi dispiace dovervi dare questa notizia, ma non posso fare nulla per lei». Il tumore si era esteso al pancreas e se ti colpisce lì sei spacciato. Così spiegò che l'aveva ricucita e le aveva lasciato solo un tubicino di drenaggio. La portammo a casa Threadgood e la mettemmo in una delle stanze da letto al primo piano perché stesse più comoda. Onsel si trasferì in quella stanza con lei e non la lasciò mai più. Iggy voleva assumere un'infermiera, ma Onsel non volle saperne. I suoi figli ormai erano adulti, ma Big George non aveva nessuno che cucinasse per lui. Iggy e Stamp, poveretti, crollarono a pezzi, se ne stavano seduti al pian terreno senza capire più nulla. Ruth deperì talmente in fretta e quanto soffriva. Cercava di non darlo a vedere, ma si capiva lo stesso. Onsel le stava sempre accanto con la medicina pronta, 24 ore al giorno, e l'ultima settimana permise soltanto a Iggy e Stamp di vederla. Disse che Ruth l'aveva pregata di non lasciar salire nessuno perché non voleva essere vista in quello stato. Non dimenticherò mai quello che disse, stando in piedi come un soldato davanti a quella porta. La signorina Ruth è una persona come si deve e sa sempre quando è il momento di uscire di scena. Questa volta non sarà un'eccezione. Mantenne la sua parola. Big George, Stamp e Iggy erano nel bosco a cercare pigne per la sua stanza quando Ruth morì e quando tornarono a casa. Lei era già stata portata via. Onze l'aveva chiamato il dottor Hadley e lui aveva mandato un'ambulanza a prendere il corpo di Ruth per portarlo alle pompe funebri a Birmingham. Andammo, Cleo e io, ad aspettare con lei, ma quando Ruth fu caricata sull'ambulanza, il dottor Hadley disse: «Va a casa ora, Onze, l'accompagnerò io alle pompe funebri». Ma Onze non volle saperne. «No, signore, quello è il mio posto», gli disse. Quindi gli passò sotto il naso, salì in ambulanza e chiuse la portiera. Aveva portato con sé la camicia da notte di Ruth e il trucco e non la lasciò fino a quando non fu sicura che Ruth fosse presentabile. Per questo non c'è una persona al mondo capace di convincermi che i negri odiano i bianchi. Al contrario, semmai. Ne ho conosciuti troppi in vita mia per poterlo credere. Proprio l'altro giorno ho detto a Cleo: «Mi piacerebbe prendere il treno per Memphis e ritorno, per vedere Jasper e sapere come se la passa. Lavora nella carrozza ristorante». Evelyn guardò l'amica e si rese conto che stava di nuovo confondendo passato e presente. Whistle Stop, Alabama, 7 febbraio 1947. Pioveva quella mattina, ma Onze l'aveva chiesto a Stamp e Iggy di andare nei boschi e di raccogliere delle pigne per la stanza di Ruth. Da qualche ora non faceva che bagnarle il viso con un panno umido. «Tenga duro, signorina Ruth, tra poco sarà tutto finito. Tra poco smetterà di soffrire, vedrà!» Ruth la guardò e cercò di sorriderle, ma il dolore nei suoi occhi era terribile a vedersi. Ormai non le lasciava più respiro, non dormiva più, non aveva neppure un momento di sollievo. Onzel, membro della prima chiesa battista del Monte Sion e solista del coro, convinta fino in fondo al cuore della natura misericordiosa di Dio, aveva preso la sua decisione. Nessun Dio, di certo non il suo dolce e prezioso Gesù, che era morto per i nostri peccati e ci amava sopra tutte le cose, aveva mai voluto che qualcuno soffrisse così. Quindi fu con Gioia e Letizia che somministrò a Ruth la morfina che aveva tenuto da parte, giorno dopo giorno. Onzel guardò il corpo di Ruth rilassarsi per la prima volta dopo settimane. E allora si sedette accanto al letto e le tenne la mano scheletrita, cantandole una nenia. «C'è una terra ogni giorno più bella, e con la fede possiamo vederla. Il padre ci aspetta in fondo alla strada per prepararci una nuova casa. Ci ritroveremo tutti sulla spiaggia, in quella dolce terra lontana». Onzel cantava con gli occhi chiusi, ma sentì il sole aprirsi uno squarcio tra le nuvole e riempire con i suoi raggi la stanza. Quel dolce tepore le fece piangere lacrime di gioia, mentre copriva lo specchio e fermava l'orologio accanto al letto, ringraziò il suo dolce Gesù per essersi portato via la signorina Ruth. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 10 febbraio 1947. È mancata un'amata concittadina. Domani il caffè sarà chiuso per la morte di Ruth Jamison, passata a miglior vita durante il fine settimana. Il funerale si terrà domani alla Chiesa Battista. Se volete sapere l'ora, telefonate al reverendo Scroggins. Fino a quel momento Ruth sarà alle pompe funebri, John Rideout di Birmingham. Sentiremo profondamente la mancanza della sua grazia e del suo sorriso, e tutti quelli che l'hanno conosciuta si sentiranno un po' sperduti. A Iggy e Stamp il nostro affetto e la nostra simpatia. Dot Wims. Birmingham, Alabama, 13 settembre 1986. E il sabato, quando Evelyn Couch andava a fare la spesa, prendeva sempre la Ford LTD di Ed, perché era più spaziosa, ma era anche più difficile da parcheggiare. Adesso aspettava da ben 5 minuti che un anziano signore caricasse le borse nel bagagliaio, impiegasse altri 3 minuti per salire a bordo, trovasse le chiavi e finalmente liberasse il parcheggio. Evelyn stava per occuparlo quando una Volkswagen rossa e piuttosto ammaccata sboccò da dietro l'angolo e si infilò nello spazio lasciato libero. Ne scesero due ragazzine magre come chiodi, con i jeans tagliuzzati e le scarpe da tennis. Ruminando la loro gomma da masticare, sbatterono la portiera e passarono come se niente fosse accanto a Evelyn. Lei abbassò il finestrino e disse a quella con la maglietta «Elvis non è morto». «Mi scusi, ma stavo entrando io in quel parcheggio». La ragazza la guardò con una smorfia. «Diciamolo pure, signora, io sono più giovane e più svelta di lei». E con questo entrò con l'amica nel negozio. Evelyn rimase seduta a fissare la Volkswagen. Con sul paraurti posteriore la scritta «Non seguitemi, mi sono perso anch'io». 12 minuti più tardi la ragazza e l'amica uscirono appena in tempo per vedere i quattro coprimozzi della Volkswagen volare attraverso il parcheggio, mentre Evelyn tamponava violentemente l'auto, faceva retromarcia e la tamponava di nuovo. Quando le due ragazze isteriche raggiunsero il loro mezzo di trasporto, Evelyn lo aveva quasi demolito. Quella più alta cominciò a dare in escandescenze. «Mio Dio, guardi cosa ha fatto! È impazzita!» Evelyn si sporse dal finestrino e in tutta calma rispose: Diciamolo pure, tesoro, sono più vecchia di te e l'assicurazione mi copre più danni. E con questo se ne andò. Ed, che lavorava in una compagnia d'assicurazioni, fece in modo che le fossero risarciti tutti i danni, ma non riuscì a capire come mai la moglie avesse tamponato 6 volte per errore la stessa auto. Evelyn gli disse di restare tranquillo e di non farne una tragedia. Gli incidenti sono all'ordine del giorno. La verità era che aveva goduto nel distruggere l'auto della ragazza. Da qualche tempo a quella parte, gli unici momenti in cui non era arrabbiata e si sentiva in pace con il mondo erano quelli che trascorreva con la signora Threadgood e in cui di notte, con la fantasia, visitava Whistlestop. Towanda stava diventando padrona della sua esistenza e in lei ogni tanto suonava un piccolo campanello d'allarme. Correva il rischio di valicare i limiti e di non riuscire più a tornare indietro. Caffè di Whistlestop, Whistlestop, Alabama, 9 maggio 1949. Quella sera Grady Kilgore, Jeff Patz e Smokey Lonsan si erano riuniti al caffè per farsi 4 risate. Era la settima settimana successiva che riuscivano a piazzare una bomba sibilante nell'auto del reverendo Scroggins. Ma quando dalla stanza sul retro uscì Stampy in abito blu e cravattino, decisero di prendersela un po' con lui. Grady gli fece il segno di avvicinarsi. «Scusi, signora Maschera, qual è il mio posto a sedere?» «Lasciatelo in pace», intervenne Iggy. «A me sembra bellissimo. Ha un appuntamento con Peggy Hadley, la figlia del dottore». «Oh, dottore!» canticchiò Jack in falsetto. Stamp si versò una bibita e lanciò un'occhiataccia a Iggy. Se non fosse stato per lei, adesso non gli sarebbe toccato andare al banchetto degli innamorati con Peggy Hadley, per la quale aveva avuto una cotta in gioventù, ma che ora gli era del tutto indifferente. Peggy aveva quasi 2 anni in meno di lui e portava gli occhiali, e lui la ignorava da quando aveva cominciato il liceo. Ma appena lei aveva scoperto che Stamp avrebbe trascorso l'intera vacanza estiva a casa, si era precipitata da Iggy a chiederle se, secondo lei, avrebbe accettato di accompagnarla al banchetto degli innamorati, e Iggy aveva graziosamente accettato. Essendo un gentiluomo, Stamp aveva immaginato che una serata non gli sarebbe costata più di tanto, ma ora cominciava già a pentirsi. Iggy aprì la ghiacciaia in cucina e gli consegnò un mazzo di roselline. «Oggi sono andata a casa e ne ho tagliate un po', dalla siepe. Portagliele, tua madre adorava questi piccoli gesti». Lui roteò gli occhi. «Zia Iggy, perché non ci vai tu al posto mio? Hai già pianificato l'intera serata!» Si girò verso il gruppetto riunito intorno al tavolo. «Ehi, Grady, ti piacerebbe andare al posto mio?» Grady scosse la testa. «Ci andrei volentieri, ma Gladys mi ucciderebbe se venisse a sapere che sono uscito con una donna più giovane di lei. Tu non sai ancora niente di queste cose. Aspetta di essere sposato come me, ragazzo, senza contare che non sono più quello di una volta». «Non lo sei mai stato quello di una volta», interloquì Jack. Scoppiarono tutti a ridere e Stamp uscì. «Vado, spero di vedervi più tardi». Ogni anno, dopo il banchetto, tutti gli studenti andavano al caffè e quella sera la tradizione si ripeté. Quando Peggy entrò, graziosissima, nel suo abito bianco e con le roselline appuntate sul petto, Iggy le si precipitò incontro. «Grazie al cielo, stai bene? Ero preoccupata per te!» Peggy le domandò perché mai si fosse preoccupata per lei. «Non hai sentito cosa è successo la settimana scorsa a quella ragazza di Birmingham? Era così eccitata al banchetto degli innamorati che mentre posava per la fotografia all'improvviso ha preso fuoco!» «Sì, un caso di autocombustione. Nel giro di pochi minuti era ridotta in cenere e di lei sono rimasti soltanto i tacchi delle scarpe. Il suo ragazzo ha dovuto portarla a casa in un bicchiere di plastica». Peggy, che fino a un certo punto aveva creduto alla storia, sospirò. «Mi stai prendendo in giro, Iggy». Stamp fu felice quando la serata fu finita e poté riaccompagnarla a casa. Il fatto di essere stato un eroe del football l'anno prima lo rendeva ancora adesso un'attrazione. I ragazzi più giovani lo fissavano come se fosse un marziano e gli bastava posare gli occhi su una ragazza perché quella cominciasse a ridere come una scema. Fermò l'auto davanti a casa di Peggy e stava per scendere ad aprire la portiera quando lei si tolse gli occhiali, si sporse sul sedile e lo guardò con i suoi grandi occhi castani un po' miopi dicendo «Bene, buonanotte». Lui Rimase esterrefatto a fissare quegli occhi che non aveva mai notato prima. Erano pozze di velluto marrone in cui avrebbe potuto tuffarsi e nuotare. Il viso di lei era vicinissimo al suo e lui inalò la fragranza inebriante del suo profumo. In quel momento Peggy divenne Rita Hayworth in Gilda. No, Lana Turner nel postino suona sempre due volte. E quando la baciò, fu il momento più intenso che avesse mai vissuto. Quell'estate l'abito blu venne indossato regolarmente e in autunno fu sfoggiato niente meno che a Columbus, in Georgia, dove Peggy e Stamp andarono dal giudice per sposarsi. «Te l'avevo detto», fu il commento di Iggy. Da quel giorno tutto quello che Peggy doveva fare era togliersi gli occhiali e guardarlo, e lui diventava il suo schiavo. Birmingham, Alabama, 24 maggio 1949. La classe media e la classe alta di Birmingham stavano avendo il loro momento di gloria e le colonne dello Slacktown riportavano di continuo notizie riguardanti i 100 e più club della città. Più chiara era la pelle, più esclusivo era il club. La signora Blanche Peavy, la moglie di Jasper, chiara di pelle come lui, era appena stata nominata presidentessa del famoso Royal Saxon Bells Social and Saving Club, un'organizzazione i cui membri erano tanto pallidi che la fotografia di gruppo annuale era più volte finita per errore sui giornali dei bianchi. Jasper era appena stato rieletto vice cancelliere dei prestigiosi Cavalieri della Pizia, quindi era più che naturale che la figlia maggiore Clarissa quell'anno fosse una delle debuttanti più attese. Con i suoi capelli oro scuro, la pelle color pesca e gli occhi verdi, era considerata la debuttante ideale. Il giorno del ballo, Clarissa andò in centro a comprarsi un profumo. Aveva raggiunto il secondo piano servendosi dell'ascensore dei bianchi, come aveva fatto già altre volte, quando si era recata in città da sola, pur sapendo che gli altri membri della sua razza si servivano del montacarichi. Sua madre e suo padre l'avrebbero uccisa se avessero saputo che si spacciava per bianca, perché, per quanto la incoraggiassero a mescolarsi solo con i giovani dalla pelle più chiara, negare le proprie origini era un peccato imperdonabile. Ma lei era stanca degli sguardi degli altri negri sul montacarichi e, come se non bastasse, andava di fretta. La bella commessa vestita di blu, dietro il banco, fu gentilissima con Clarissa. «Ha mai provato spalle bianche?» «No, non mi sembra». La commessa prese un campione da sotto il banco. «Ne metta qualche goccia. Shalimar è molto venduto, ma forse è troppo dolce per una pelle chiara come la sua». Clarissa applicò il profumo sul polso e lo annusò. «È fantastico! Quanto costa?» «È in offerta speciale. 8 once per 98 centesimi. Le durerà almeno 6 mesi». «Lo compro». La commessa sorrise. «Ottima scelta. Paga in contanti?» «Sì». La donna prese il denaro e andò a confezionare il profumo. Intanto, un negro con il cappello e la giacca a scacchi si era fermato poco lontano. Fissava Clarissa. Ricordava una foto vista sul giornale. Dopo un istante prese coraggio e si avvicinò. «Tu non sei la figlia di Jasper?» Colta dal terrore, Clarissa finse di non sentirlo. «Sono tuo zio Artis, il fratello di tuo padre!» Artis, che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e non poteva certo immaginare che quel giorno Clarissa volesse spacciarsi per Bianca, le posò una mano sul braccio. «Sono io, tuo zio Artis, cara, non mi riconosci?» La commessa alzò gli occhi, vide Artis e fu colta dal terrore. «La lasci stare!» Corse da Clarissa e la nascose dietro di sé. «Se ne vada immediatamente! Harry! Harry!» Arrivò il direttore. «Che cosa succede?» Continuando a tenere Clarissa dietro di sé, la donna cominciò a sbraitare in modo che tutto il piano la sentisse. «Questo negro stava molestando la mia cliente! L'aveva presa per un braccio! L'ho visto!» «Guardia!» gridò Harry. E poi, rivolto ad Artis, «Ha toccato questa donna bianca, signore?» Artis era scioccato. «Certo, è mia nipote!» Cercò di spiegarsi, ma la guardia lo aveva fatto girare su se stesso, imprigionandogli un braccio dietro la schiena, e lo stava trascinando verso un'uscita secondaria. La commessa confortò Clarissa. «Va tutto bene, cara, quel negro era ubriaco o pazzo?» Il gruppo delle signore, che aveva fatto capannello intorno a loro, si dichiarò d'accordo. «Sì, era soltanto un altro negro ubriaco. Ecco che cosa succede essere gentili con loro». Artis, che si era sbucciato le mani e le ginocchia quando era stato buttato fuori nel vicolo asfaltato dietro il negozio, prese il tram che andava nel quartiere sud e andò a sedersi nella zona riservata alla gente della sua razza. Non era più sicuro che quella ragazza fosse veramente Clarissa adesso. Anni più tardi, quando ormai era sposata e con figli, Clarissa entrò nella caffetteria in cui lui faceva il cameriere e gli diede un quarto di dollaro di mancia. Ma non lo riconobbe e lui non riconobbe lei. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 10 agosto 1954. Disavventure a più non posso. Sarà la vecchiaia o la pazzia, ma la mia dolce metà Wilbur è tornato a casa per 3 giorni, di seguito lamentandosi di un forte mal di testa. E che cosa c'è di peggio al mondo di un uomo con il mal di testa? Forse è per questo che sono le donne a fare i figli. Da un po' di tempo però facevo fatica a leggere il giornale, così ieri mattina sono andata a Birmingham per farmi controllare la vista e pensate un po', avevo sul naso gli occhiali di Wilbur e lui i miei. La prossima volta li sceglieremo di colore diverso. C'è chi ha avuto una sorte peggiore. Ho sentito dire che qualche giorno fa c'è stato un incendio nel salone di bellezza di Opal e Biddy Louise Otis, bloccata sulla sua sedia in attesa che la permanente facesse effetto, ha cominciato a gridare all'assassino perché pensava che fossero i suoi capelli ad aver preso fuoco. Ma erano soltanto dei capelli tagliati e poi buttati nel cestino che si erano incendiati. Naughty Bird, la lavorante di Opal, ci ha versato subito sopra un bicchiere d'acqua. Non scordatevi di votare. Nessuno si è candidato contro Grady Kilgore, ma fatelo lo stesso, altrimenti ci resterà male. Per finire, Jasper Peavey ha ricevuto un altro elogio nelle pagine del Railroad e possiamo immaginare la contentezza di Big George e Onsel. Dot Wims. PS, il Club dei Cetrioli Sott'aceto ha messo in scena l'annuale spettacolo di follie freddure, che è stato esilarante come sempre. La mia dolce metà ha cantato Red Sails in the Sunset come l'anno scorso. Spiacente, ma non riesco a fargliene imparare una nuova.